gira, gira la clessidra. Oltre il tempo cosa c'è? C'è lo spazio, c'è l'inconscio e non sei più tu. Jekyll o Mr. Hyde, Jekyll o Mr. Hyde. C'erano nella sabbia, sole lunatiche tac, e sei fuori dalla gabbia, un volo e sei lassù, Icaro Peter Pan, Icaro Peter Pan. Svolge la poesia ora, naufragare un po', salpa il battello e per l'aldilà. Gira, gira la clessidra, dentro il tempo cosa c'è? Era chiusa nell'istante, l'immortalità, la natura lo sa. Svolge la poesia ora, naufragare un po', salpa il battello e per la di là. Gira, gira la